Beh, in poche parole è la riduzione delle autonomie scolastiche all'interno della regione, ovvero in ogni regione è presente un certo numero di autonomie scolastiche, ovvero di istituzioni scolastiche, di scuole, che vanno dalle direzioni didattiche alle scuole medie, agli istituti comprensivi, alle scuole superiori e, diciamo così, è il patrimonio della scuola pubblica che ogni regione ha a disposizione per consentire un'offerta formativa ai propri studenti e quindi intervenire sulle autonomie scolastiche riducendole significa ridurre sostanzialmente il perimetro pubblico del sistema pubblico di istruzione, oltre che a danneggiare in modo significativo l'occupazione, perché riducendo le scuole, la semplifico, ovviamente si perdono posti di lavoro. Il governo aveva appunto imposto questo ridimensionamento. Voi da tempo sostenete che l'Emilia-Romagna rispettava i parametri, come ad esempio il numero di studenti, cose di questo tipo? Assolutamente sì. La regione Emilia-Romagna è dal 2000 che è intervenuta, diciamo, sulla riorganizzazione della rete scolastica, prima applicando la legge che istituiva gli istituti comprensivi e poi via via nel corso del tempo andando a dimensionare, diciamo così, le proprie scuole in relazione al numero degli studenti e alla collocazione stessa degli edifici scolastici. Faccio un esempio molto concreto: in questa regione nel corso degli anni si è deciso di salvaguardare per esempio le autonomie scolastiche di montagna proprio per assicurare un presidio democratico in quelle aree, diciamo, più spopolate del nostro territorio e quindi consentire ai cittadini e alle cittadine, ai bambini e alle bambine di utilizzare, fruire di un presidio scolastico. Questo naturalmente ha comportato dei sacrifici in pianura, ma sono scelte che sono state fatte in modo oculato e nel fare queste scelte comunque una grande attenzione si è avuta rispetto al numero degli studenti. Si può tranquillamente affermare che la nostra regione è una di quelle regioni non solo dimensionate, ma che va oltre a quelli che sono i parametri richiesti dalle norme. Quindi questo intervento a gamba tesa, violento nei confronti della regione Emilia-Romagna e del suo sistema di istruzione è non solo gravissimo, non solo iniquo, ma ha un sapore ritorsivo. Certo, ecco, eppure il governo sostiene che questo dimensionamento era necessario perché è richiesto dal PNRR. Il governo credo che faccia queste affermazioni in modo generico, senza tenere conto, come ho detto, delle condizioni vere della nostra regione. Per questo è ancora più sbagliata la decisione del governo di commissariare l'Emilia-Romagna. Io qui non sto a fare una classifica dei buoni e dei cattivi, di chi doveva o non doveva dimensionare, non è il mio compito. Dico solo, soffermandomi a pensare all'Emilia-Romagna, che l'Emilia-Romagna, rispetto alla legge che questo ministro dice di voler applicare, è adempiente. Quindi, torno a dire, il punto a mio avviso è solo di natura politica, perché se il ministro avesse avuto solamente un attimo per andare a verificare i numeri, e i numeri non sono modellabili, i numeri sono numeri, avrebbe visto che togliere 17 autonomie scolastiche in questa regione significa creare dei mostri di istituzione scolastica difficilmente gestibili, così come sarà difficilmente gestibile tutta quella parte che riguarda la didattica, ma anche la dispersione scolastica, perché con delle scuole grandi dove i ragazzi sono degli indistinti, cioè sono dei numeri e spesso quindi diventano degli invisibili, non certamente si fa un buon servizio a quella che è la scuola pubblica del nostro sistema regionale. Ecco, quindi è un attacco alla scuola pubblica? Sì, lo dico con convinzione, è un attacco alla scuola pubblica. E questo e questa affermazione, di cui mi assumo la responsabilità ovviamente fino in fondo, è supportata anche dal fatto che nella legge di bilancio questo governo ha stanziato migliaia di euro di risorse, da un lato per i bonus a favore di chi frequenta le scuole paritarie, dall'altro destinando milioni di euro alla scuola paritaria. Io ricordo a tutti che la Costituzione dice senza oneri a carico per lo Stato, quindi questa è un'operazione che va a ridimensionare le risorse del sistema pubblico di istruzione a favore di quello paritario. Sì, quindi con convinzione.